Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Chiudiamo il mese di settembre con il primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Tema del giorno, i mutui e i giovani. Due parole che però sembra non vadano molto d'accordo, nel senso che i giovani fanno difficoltà a ottenere mutui. Certo Mirko, in varie occasioni abbiamo sempre parlato di precari, come questa categoria di giovani, e purtroppo anche non più solo giovani, hanno molte difficoltà a poter condurre una vita normale, soprattutto perché non possono programmare nulla in un medio e lungo termine. Questa volta a verificarlo è stata un'indagine effettuata presso 12 istituti bancari, e al quale una coppia di giovani ha provato a richiedere un mutuo per acquistare la casa. Però le risposte sono sempre state negative, ma con quali motivazioni? Allora, per capire bene, si tratta di due giovani che a nostro avviso si trovano anche in una condizione abbastanza privilegiata. Lui è in contratto a tempo indeterminato a 1.500 euro uniti al mese, mentre lei a 1.200 euro contratto a progetto rinnovabile in tre anni. È stato fatto sì che questa coppia dovesse acquistare un bilocale da 100.000 euro, che avesse già una disponibilità di circa 50.000 euro per effetto di aiuti da parte di genitori, zii, parenti e quant'altro, per cui hanno cominciato a rivolgersi in 12 istituti per richiedere un mutuo da 150.000 euro. Certamente una condizione di mutuo sui 20 anni a tasso variabile, quindi una rata di circa 800 euro al mese, che insomma sull'importo di 2.700 complessivi in certo qual modo si può anche pensare di poterla sostenere abbastanza tranquillamente, però sostanzialmente le credenziali per poter accedere a questo prestito sono state negative in tutti i 12 istituti bancari quali queste coppie si sono rivolti. 2.700 euro, insomma, un introito diciamo non male. Certamente ci sono coppie o famiglie che stanno molto peggio, quindi se non ce la fanno loro, figuriamoci gli altri. Sì, infatti diciamo che la motivazione sostanziale che ha permesso a questa coppia ad accedere al mutuo per l'acquisto della casa è stata che praticamente il contratto a progetto, anche se di 3 anni, le banche sostanzialmente non lo considerano, e 1.500 euro per loro è poco, ma soprattutto non è una garanzia sufficiente per poter erogare questo prestito. Per cui al di là di quelli che sono poi tutti gli interventi che il governo ha fondi slogan, insomma, ha detto di aver fatto, o che in passato sono stati fatti a favore dei giovani o dei prestiti o delle agevolazioni per l'acquisto della casa, eccetera, scopriamo come alla resa dei fatti sostanzialmente non esistono nulla che permetta a questi ragazzi di poter acquistare una casa. E da qui poi potremo aprire una discussione senza fine, che possiamo cominciare dal famoso fenomeno dei bamboccioni, chi veramente è costretto o ad andare in affitto o veramente a vivere con i propri genitori, perché come detto, essendo anche una condizione abbastanza privilegiata, sappiamo come oggi sostanzialmente contratti indeterminati non esistono più e le aziende non li propongono. È vero che la crisi economica 2007-2008 è iniziata proprio per i mutui subprime statunitensi, è vero dunque che le banche vogliono essere sicuri che questi soldi vengano restituiti nel corso degli anni, è altrettanto vero che per quanto riguarda l'Europa, la Banca Centrale Europea ha foraggiato moltissimo le banche, che però sembrano tenersi questi soldi oppure erogarli in quantità molto maggiore, ad esempio alle aziende. Ci sono mutui proprio per aziende che sono numericamente cifre almeno a 6 zeri, qui invece parliamo di una casa. Ma sì, ma poi alla fine scopriamo che è un ciclo vizioso, perché se da una parte la banca centrale eroga delle risorse alle banche, poi le stesse le utilizzano per acquistare titoli di Stato e alla fine diventa sempre quasi un giro chiuso, quando in realtà chi veramente ha bisogno, o anche veramente le imprese, perché comunque quello che è stato fatto non è assolutamente adatto e sufficiente per dare un minimo di iniezione di fiducia ai nostri mercati o chi svolge un'attività imprenditoriale. Poi vogliamo nel concreto che anche di fronte a un appartamento che vale 200.000 euro, dove loro chiedevano prestiti e garanzie per 150.000 euro, vuoi anche la crisi dell'immobiliare, ma certamente anche in considerazione di un'entrata complessiva di 2.700 euro, di cui una persona è anche a suo tempo indeterminato, vediamo che insomma altre garanzie risulta più difficile, se non quelle che dai genitori o dai nonni, o vincolarli con altre garanti, che però certamente vanno a esporre anche chi a una certa età dovrebbe essere un po' più tranquillo, in realtà si trova ad accollarsi quella che è la responsabilità e la scelta che invece i giovani devono fare per garantirsi un futuro. Insomma, ci stiamo un po' impoverendo e proprio questo sarà il tema del nostro prossimo incontro tra due giorni, perché gli italiani hanno paura di diventare poveri, soprattutto generazioni che poveri non sono mai state. Ci ritroviamo tra un paio di giorni, grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te Nico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.